Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Io fra poco vi parlerò di segnali che ci arrivano da più di 13 miliardi di anni fa, ma poi ritornerà Chiara e ci parlerà di piante che si difendono dall'acqua e di volo umano. Adesso i titoli e poi incominciamo. Quando tutto l'universo si creò, un segnale forse arriva a noi da 13 miliardi di anni fa. Lei è un'amica perfetta ed è un computer. La incontri al cinema in questi giorni. Piante che possono rimanere sommerse e resistere alle inondazioni. Ne parliamo con un giovanissimo ricercatore toscano che ha pubblicato la sua ultima scoperta su Nature. Volano tutti e due, ma sono molto diversi: gli aerei e gli uccelli. La domanda di Claudio questa settimana ci porta in quota. Saluto subito il nostro ospite di questa sera, Paolo De Bernardis. Buonasera De Bernardis. Buonasera. Allora, lei è docente di astrofisica all'Università Roma Sapienza, poi ha a che fare con un satellite che c'entrerà molto in quello che diciamo, il satellite europeo Planck. Arriviamo a lei perché, certo, la notizia di questi giorni, che devo dire ha avuto anche un certo risalto sui quotidiani, è la... come possiamo, da una parte è stata annunciata come un'ulteriore definitiva conferma della relatività generale di Einstein e dall'altra però in generale è stata salutata come il segnale che le onde gravitazionali esistono, che c'è questa propagazione del campo gravitazionale. Però vorrei incominciare con lei facendo una importante differenza tra questo risultato che è stato ottenuto da un team gestito da John Kovach della Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, ecco, il risultato che è stato ottenuto adesso e in generale la ricerca delle onde gravitazionali. Vogliamo cominciare da qui? Sì, sono due cose molto diverse. Le onde gravitazionali sono le perturbazioni dello spazio-tempo che vengono generate dal movimento di masse nell'universo. Sappiamo che esistono, sono state previste da Einstein molto tempo fa e sono state confermate indirettamente dai segnali delle doppie pulsar, quindi ci sono già state delle misure indirette. Quello che si sta cercando di fare con Virgo, LIGO ed altri esperimenti è una misura diretta, cioè vedere l'effetto di un'onda gravitazionale che passa qui in questo momento in un particolare rivelatore di onde gravitazionali. Ecco, per avere questo segnale, mi scusi De Bernardi, noi cosa abbiamo bisogno? Per esempio, sappiamo che ci sono collassi di galassie una sopra l'altra, cose di questo genere? Delle compatte una sopra l'altra, direi, più che di galassie. Questo, un po' raro. Genera un importante segnale, diciamo, nella nostra periferia, vicino, relativamente vicino a noi. Poi ci sono anche effetti invece che avvengono molto lontano da noi nello spazio e nel tempo, e in particolare il fenomeno dell'inflazione cosmica, che finora era stato ipotetico, era stato ipotizzato ma nessuno aveva mai avuto modo di confermarlo, che dovrebbero questi eventi generare anche loro onde gravitazionali, che sono di tipo molto diverso dalle precedenti. Sono state generate molto tempo fa, hanno perturbato l'universo a quell'epoca, oggi quelle non ci sono più. Però se ne può vedere l'effetto di queste tramite altre osservazioni che sono quelle del fondo cosmico di microonde. Quindi, allora, se abbiamo grandi movimenti di masse nell'universo, questo dovrebbe generare delle onde gravitazionali che possiamo cogliere con degli strumenti. Lei citava prima Virgo, che è un'antenna, insomma, qui in Italia, vicino a Bologna, se non ricordo male, che è dedicata appunto alla cattura di questo tipo di segnali. Qui invece parliamo di inflazione. Ci dice rapidamente che cos'è questa teoria dell'inflazione, che fu avanzata per la prima volta, credo, nel 79 da un astrofisico, Alan Guth. Sì, Guth da una parte, Lind da un'altra parte, sì. Ma sì, negli primissimi anni 80 questa idea di una fase di espansione accelerata e velocissima dell'universo, questa serviva a spiegare dei problemi che si hanno nelle osservazioni dell'universo a grande scala, il fatto che sia così uguale a se stesso, ovunque, così uniforme, così isotropo. Con questa fase di espansione velocissima si risolveva il problema, perché tutto quello che riusciamo a vedere adesso, tutto l'universo che riusciamo a vedere adesso, era stato in contatto vicinissimo prima dell'inflazione cosmica, cioè l'inflazione ha espanso a scale cosmologiche oggetti microscopici. E quindi il gruppo di Kovacs ha trovato tracce di questo tipo di effetti gravitazionali, cioè quelli dell'espansione rapidissima, quelli dell'inflazione. L'inflazione è una teoria molto bella perché fa delle previsioni precise. Il punto che mancava era quello della previsione di produzione di onde gravitazionali da parte dell'inflazione cosmica. Molto difficile da misurare. Senta, la cosa assolutamente sorprendente per chi non lavora da molto addetto ai lavori in questo campo è che qui si parla di segnali, è quasi difficile esprimerlo, cioè sono talmente piccoli che nell'immaginario di noi tutti sembrano assolutamente non qualificabili come segnali, sembra che sia impossibile riuscire a interpretarli in un rumore di fondo. Viene da dire chissà quanti errori possibili ci sono se dobbiamo catturare segnali così minimi. E il satellite Planck, ecco, lei su Planck lavora anche in questa direzione, no? Con quantità così infinitesime. Com'è che si riesce ad essere attendibili? Allora, questi segnali sono effettivamente minuscoli e la principale preoccupazione dei fisici sperimentali è riuscire a fare misure di quantità minuscole e spesso sommerse dagli errori e dal rumore della misura in modo affidabile. E infatti i fisici sia quelli che hanno sviluppato il satellite Planck, sia quelli che hanno sviluppato l'esperimento BICEP, hanno cercato in tutti i modi di fare dei test che falsificassero i risultati. Certo. Tutti questi test sono falliti. Come si fa? Intanto ci bisogna avere a disposizione dei sensori estremamente sensibili. Qui si tratta di sensori di microonde, sono un po' come le antenne che ci sono nelle antenne paraboliche che abbiamo sui tetti delle nostre case per ricevere per i programmi televisivi satellitari, no? I programmi satellitari. Bene, sono molto molto più sensibili di quelli. Quelli dicevano microonde prodotte dal satellite, sono lontani ma sono molto potenti. Qui abbiamo una sorgente di microonde infinite volte più lontana e già il fondo cosmico di microonde è circa l'1% del rumore che hanno questi ricevitori che usiamo noi tutti i giorni. Quindi non si può vedere con questi sensori. Si usano sensori più freddi. E molto più sensibili. Quando dico più freddi vuol dire che vengono raffreddati circa una temperatura 1000 volte più bassa di quella che c'è normalmente nell'ambiente. E questo è un primo passo che congela tutte le sorgenti di incertezza del rumore termico, diciamo. L'altra cosa che si deve fare è replicare l'apparato di misura in molte copie e creare un mosaico di questi rivelatori che fanno tutti simultaneamente la misura in modo da poterla confermare e anche fare più velocemente. Tanto per dare un'idea, sul satellite Planck ci sono 70 sensori, sull'esperimento BICEP che è stato creato dopo Planck ce ne sono già 512, quindi è molto più sensibile e pronto a fare le misure. In più c'è un altro aspetto di differenza tra i due apparati sperimentali. Uno è pensato per fare una mappa, anzi nove mappe definitive del cielo a nove lunghezze d'onda, e Planck in questo senso ha avuto un grandissimo successo, nel senso che ha fatto delle mappe in bande in cui l'universo non era mai stato esplorato prima. BICEP ha avuto un approccio diverso, ha detto noi vogliamo trovare quel segnale lì dell'inflazione cosmica, ci concentriamo su una piccola zona di cielo che è la più favorevole di tutte, alla fine sono riusciti a trovare un segnale molto piccolo, molto piccolo. Credo che per comprendere almeno in parte in che modo questi segnali possono essere attendibili, quello che lei ci diceva, cioè facciamo 500 misure, confrontiamole tra di loro, a quel punto effettivamente può sembrare abbastanza comprensibile che si trovi il valore, un valore confermato, attendibile. Certo, questa è una strategia, mi sembra facilmente comprensibile. Sono stati bravissimi. Però non c'è dubbio. Ci vogliono conferme. Dobbiamo aspettare. E questo è quello che vedremo nei prossimi mesi, forse anche ci vorrà qualche anno. Paolo De Bernardis, grazie, buon lavoro, buona ricerca. Arrivederci. Veloci ora al nostro terrestre traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Musica suadente tratta da un film. Che è nelle nostre sale italiane da un paio di settimane. Il film è Her, lei. Non mi soffermo molto sugli aspetti del film per quanto riguarda regia, l'insieme degli attori, produzioni. Ricordo solo che c'è un attore, Joaquin Phoenix, che nel film fa la parte di un signor Theodore, e che insieme a Samantha è il centro di tutta la storia. La storia qual è? È quella del rapporto tra una persona e lì lo chiamano sistema operativo, forse non è la definizione più corretta, ma sostanzialmente una persona completamente virtuale generata da un computer con un server con il quale c'è tutta la possibilità di interazione, e intorno a questo si sviluppa la storia. Per parlare di tutto ciò che c'è intorno, che tutte le riflessioni che si possano fare su questo film, ho con me questa sera in studio Armando Massarenti. Ciao Armando. Ciao, buona serata a tutti. Che dirige il domenicale, l'inserto cultura del Sole 24 Ore, e molto lontano da noi ho anche Roberto Casati. Buonasera Casati. Salve, buonasera. Filosofo, adesso dove? Nel New Hampshire? Sì, a Dartmouth College. Ok, e anche Armando ha un background di tipo filosofico. Allora, ho chiamato voi due perché, a parte il fatto che ne avete scritto sul Sole 24 Ore, sul domenicale, ma perché certo qui c'è qualcosa su cui ragionare rispetto a questa vicenda. Vogliamo sentire quattro brevissimi estratti dai dialoghi di questo film. Il primo. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Ecco, qui vedete, è proprio il primo incontro tra Theodore e il personaggio virtuale. È la prima volta e lei è tremendamente cordiale. Sentiamo il secondo. Buongiorno, Theodore. Buongiorno. Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto. Sei troppo divertente. Bene, sono divertente. Ecco, come sentite, lei entra così tanto nella sua vita da svegliarlo in modo estremamente cordiale, ricordandogli un appuntamento della mattinata. Effettivamente è qualcosa che è tutt'altro che frequente, insomma, nella vita di noi tutti. Un terzo estratto. È da tanto che non sto con una persona con cui mi senta completamente a mio agio. E qui la vicenda si fa più complessa, perché lui dice è da tanto tempo che non sto con una persona, che però qui lui non dice che questa è virtuale, con la quale sono tremendamente a mio agio, ma qui c'è un essere a proprio agio, come dire, per contratto, no? Lei non sarà mai qualcosa in contrasto con lui. E il quarto estratto, con questo chiudiamo. Com'era essere sposati? C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno. Allora, lei ha incominciato a parlare con lui del passato e gli chiede appunto com'è che era stare sposati, e lui dà veramente una risposta che è legata al fatto che ha avuto una storia matrimoniale invece disastrosa, ma a lei confessa che lui invece avrebbe un grande desiderio di una storia densa. Allora, Roberto Casati, cominciamo da lei con una prima riflessione. Che cos'è che le viene in mente? Ma io partirei da una ridescrizione di tutto quello che è stato detto, perché va bene che il film è fatto in modo da farci credere che ci sia un rapporto qui, sì, però in realtà realtà c'è soltanto un'interazione con una macchina. Assolutamente. E questo è un film sicuramente molto interessante, perché forse non è un film grandissimo, non siamo a livelli di, che ne so, di Blade Runner, no, o di certo. 2001, Odissea nello spazio, però ci sono delle riflessioni interessanti, e un tema veramente interessante è quello della voce come mediazione fondamentale di questo rapporto. Le persone, i protagonisti parlano, c'è una grande attrice nel film originale che rappresenta la voce del sistema operativo, e viene esplorata questa dimensione nel film, una dimensione abbastanza rara, che è quella dell'interazione puramente vocale. Però questo non deve farci dimenticare, secondo me, che il grande tema del film è sostanzialmente la masturbazione. Cioè, chiamarlo un rapporto è una cosa abbastanza strana, un po' forte. Questo personaggio ha le uniche due scene di sesso nel film sono scene masturbatorie. Una prima volta, quando il protagonista ha una live chat con una persona reale, e la seconda volta quando il sistema operativo gli offre una surroga di un rapporto. Ora, l'idea che mi sembra veramente buona del film è che questa pratica masturbatoria si estende a tutte le attività della vita del protagonista, per cui diventa una forma di piacere quasi intellettuale o un surrogato anche di un'esistenza quotidiana, ma non userei un termine diverso per definire quello che sta avvenendo. Mi sembra interessante che un film dedichi, senza chiamarla con questo nome, una riflessione al tema della masturbazione, che è completamente assente dalla maggior parte della filmografia a me nota. Armando. Sì, sicuramente le cose stanno come ha detto Roberto Casati. Sottolineerei ancora di più l'aspetto della voce, che però apre una serie di paradossi che riguardano proprio la questione della masturbazione, che è una masturbazione che ha a che fare con l'intelligenza del protagonista, no? Perché il protagonista in realtà non è vero che ha avuto una storia così disastrosa dal punto di vista della realtà. Ha avuto una storia che lui idealizza, ma che comunque era molto, nei suoi ricordi, è una storia reale con sì, questa è moglie. Vero. Non era che così era, male. Esatto, certo. E anzi era una storia che rasentava la perfezione e soprattutto imitava anche un po' quello che succede tra un individuo che ha a che fare con un sistema operativo esperto, cioè si impara insieme. Ora, il problema è che nella vita reale si tratta di due individui veri, invece nel film, col sistema operativo, si imparano delle cose insieme, a volte è addirittura il sistema operativo che è più curioso, vuole sapere cose che forse non potrà mai sapere perché non ha un corpo, c'è tutta la questione di avere o non avere un corpo, il vantaggio che lui ha con le altre donne perché loro hanno un corpo, invece la Samantha, che poi è lei che ha deciso, lei poi tra l'altro di chiamarsi così, è solo voce, ed è una voce però, paradosso nel paradosso, che è una voce molto incarnata, cioè nel senso che è una voce meravigliosa, ironica, dove sembra quasi di sentire le corde vocali, no? Che sono evolutamente, c'è cioè una modulazione che ti fa sembrare certo. Di essere di fronte ad una persona reale. Quindi questo secondo me apre tutta una serie di questioni tra appunto che cosa uno vorrebbe dal punto di vista dell'idealizzazione, questo non solo perché ha a che fare con un mondo virtuale, ma anche nella vita reale. Quindi secondo me il film gioca abbastanza sapientemente, anche con ironia, tra questo fatto, no? Che in fondo avere a che fare con un sistema operativo, avere a che fare con persone reali, a volte sono cose che in parte coincidono, ecco, cioè pongono gli stessi problemi. Poi l'altro problema filosofico, secondo me, è questo. Quanto è un problema antichissimo, già Aristotele se n'era occupato, poi Hume l'aveva ripreso, è quanto sono reali le sensazioni, le emozioni che noi proviamo quando assistiamo o leggiamo qualche cosa che invece è pura fiction. Allora, qui continuamente sì, il film questo, gioca me. Su questo, gioca a farti quasi innamorare di questa voce come il protagonista, immedesimandoti, ma non mai fino al punto davvero di immedesimarsi, ma comunque stando abbastanza dalla parte del protagonista e un po' facendosi avvolgere da questa forma di innamoramento che in realtà è pure reciproco nel film, e quindi questo crea ulteriori paradossi. C'è anche un tentativo appunto di rendere corporea questa voce, fallito miseramente. Quindi insomma è un film che ha tanti registri e che si presta a molte riflessioni di tipo filosofico, ma è verissimo che la questione vera è fino a questa punto, dell'autoerotismo. Ecco, però Casati, a un certo momento lui sviluppa un rapporto completo, no, con questa persona, fatto anche di tante piccole impressioni, emozioni quotidiane, cioè c'è davvero una quotidianità, e questo sembrerebbe potersi allontanare da una definizione esclusiva che certamente è al centro, che è questa dell'autoerotismo. Invece lei dice che si estende su tutto. Soprattutto è vero quello che ha detto Armando Massarenti, cioè che c'è il rapporto con la persona reale, la sua ex moglie, un rapporto chiaramente idealizzato, però presentato sotto una luce molto positiva, lui ne ha dei bellissimi ricordi. Al tempo stesso la ex moglie gli ricorda in quell'incontro in cui lo rimprovera per il fatto che lui dice di uscire con, quindi questa parola inglese che è dating, che secondo me non è traducibile bene in italiano, ma di stare con il suo sistema operativo, gli rimprovera di non aver mai voluto affrontare la complessità dei rapporti umani, perché un rapporto con una persona non ha niente a che vedere con il rapporto con un'interazione con una macchina, per tante ragioni, perché le persone sono persone con dei diritti morali e i rapporti con le persone sono rapporti complicati, i rapporti di coppia sono rapporti complicati in cui ci sono degli scontri, ci sono delle difficoltà, e questo secondo me è un altro tema che può essere sviluppato a partire dal film, e secondo me il film non lo sviluppa molto bene, però è quello del fatto che la mediazione nei rapporti tende a creare delle forme di leggera sociopatia. Il libro della Torkel, che ha analizzato diverse interviste con centinaia di ragazzi, di utenti di nuove tecnologie, che non riescono più neanche a fare delle telefonate perché non sanno come chiudere una telefonata, mentre è molto semplice, e come molto semplice anche per Theodore, chiudere una conversazione, tanto comunque dall'altra parte nessuno gli rimproverà nulla, cioè, non è che se lui semplicemente stacca o fa finta di non essere collegato in quel momento qualcuno glielo rimprovera, mentre non si può fare una cosa del genere nella vita reale, non si può stare a tavola con una persona e non ascoltare quello che ti sta dicendo, quindi l'idealizzazione di cui parla Armando è effettivamente funzionale a cercare di farci credere, ed è questo il gioco di ogni film, di ogni opera d'arte, a cercare di farci credere che questa sia una realtà possibile, cioè che questo sia veramente un rapporto. Sì. Ma, ripeto, non si va molto al di là semplicemente del fatto che si chiedono delle cose a una macchina e la macchina dà esattamente le risposte che uno vuole. C'è una storia dietro questo, che è la storia dei primi software cosiddetti sociopatici, no? Che come Elisa, che con un'interazione non vocale ma manuale, su una tastiera da schermo, creavano dei dialoghi che erano fatti per modellarsi sulla psicologia dell'interlocutore senza avere loro stessi una psicologia dietro. Cioè, sì, certo. Limitavano a ricopiare alcune frasi. Erano in grado di ricostruire un linguaggio medio, intermedio, che poteva funzionare per un numero praticamente infinito di risposte. Ecco, però quello che il sistema operativo inizia così, la frase che lei ha citato è quella, dice mi trovi simpatica, no? Lui dice sei simpatico, lui dice mi trovi simpatica, ripeti l'ultima cosa che hai detto in maniera da sembrare che stai prestando attenzione alla persona che ti sta davanti. Chiedo un'ultima cosa ad Armando, però c'è questa nostra disponibilità a rendere assolutamente reale qualcosa che non lo è, cioè sembra quasi che siamo proprio ben costruiti per poter rispondere a questo. Sì, ma poi c'è anche un pericolo insito in tutto ciò, che è quello di trovarsi molto meglio con la macchina che non con delle persone reali, perché se la conversazione è più ricca perché la macchina ha una disponibilità di argomenti infinita, perché non è più come con Elisa che ripete semplicemente, ma ha una capacità molto più complessa, allora il tema, c'è un tema che serpeggia continuamente nel film, è quanto è più semplice, quanto più, e il protagonista peraltro ha una sorta di gradazione di emozioni più o meno rozze che può provare, infatti all'inizio è una debacle continua, no? Prova questi programmini, ma addirittura appunto il sesso fatto con una persona fisica dall'altra parte è ugualmente assurdo e virtuale quanto lo sarebbe se fosse fatto con una macchina, anzi addirittura paradosso nel paradosso sembra molto più vero quello con Samantha. Quindi secondo me c'è un gioco continuo su questo, e ciò dovrebbe indurre insomma uno spettatore riflessivo a capire quanti problemi ci sono nel maneggiare queste macchine, e il fatto che sono molto riposanti. Quando lui gli va a vedere la prima cosa che fa, gli va a vedere la posta, gli cancella tutti i messaggi inutili, ecco, questo è un sogno che forse noi tutti avremmo lo fa con pertinenza, però quindi queste macchine oramai hanno delle capacità obiettivamente, certo per quanto finte, obiettivamente molto efficaci dal punto di vista di ciò che invece noi pensavamo fosse un'intelligenza reale. Potrebbero entrare in modo molto fine nella nostra quotidianità. Roberto Casati, Armando Massarenti, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie. Una pausa adesso e poi torniamo con La pianta sommersa. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. al prestigioso Sant'Anna di Pisa, questa scuola di specializzazione, noi andiamo spesso, ma anche centro di ricerche, però per piante, per vegetali mi pare che... Sì, perché c'è un laboratorio che si chiama appunto Plant Lab ed è, fa parte dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e insomma c'è un giovane ricercatore, 31 anni, ma, insomma mi viene da dire molto giovane, ecco, che ha appena pubblicato su Nature Communications, quindi un bel traguardo. Un bel palcoscenico. Ah, sì. Una nuova ricerca relativa appunto alle piante. Vorrei che fosse lui che ce la raccontasse, così da non dire imprecisioni. Subito. Allora, salutiamolo, Francesco Licausi. Buonasera e benvenuto. Grazie, grazie. Buonasera, Francesco. Intanto, congratulazioni. Non è da tutti, a 30 anni a pubblicare su Nature, insomma, congratulazioni. Grazie. Però adesso vogliamo sapere qual è la sua scoperta in qualche modo, che cosa ha studiato? Cerco di spiegarla in parole semplici, dovrebbe essere possibile. Dunque, quello che il nostro gruppo di ricerca ha trovato è che c'è una proteina nelle piante che utilizza l'ossigeno che è disponibile nell'atmosfera che circonda le piante per, in particolare, degradare le proteine che sono normalmente presenti nella pianta e per stimolare una risposta che consente alla pianta, quando questa è sommersa, di rispondere e di poter sopravvivere. Francesco, una minima spiegazione di degradare le proteine. Praticamente le proteine sono lunghe sequenze di aminoacidi e la pianta ha la possibilità di tagliare la proteina in piccoli pezzettini e poi riciclare questi aminoacidi per farne di nuove. Quindi fa un po' da laboratorio chimico, no? Precisamente, no. Ok. Un po' da spazzino e da spazzino le proteine. Quale pianta possiede questa proteina che avete studiato? Dunque, la pianta che utilizziamo noi si chiama Arabidopsis ed è una pianta piuttosto piccola e di praticamente nessun interesse agrario. Però questa proteina in realtà è posseduta da tutte le piante che sono presenti sul nostro pianeta. Arabidopsis è un po' una pianta modello che viene utilizzata dai biologi. Precisamente, è un po' quello che potremmo definire un topo per un biologo umano. Ecco, io non volevo dirlo, l'ha detto lei. Sì. e quindi, questa proteina qua ha la capacità di rendere la pianta in grado di percepire quando non c'è abbastanza ossigeno e quindi di attuare tutta una serie di risposte che le permettono di sopravvivere quando, ad esempio, è sommersa. Perché quando la pianta è sommersa ha una carenza di ossigeno. Ma mi scusi però... Una pianta è sommersa se è una pianta acquatica in qualche modo, oppure si pensa al fatto che sia sommersa da un'inondazione, per esempio? Dunque, questo ad esempio è un caso estremo, però dobbiamo pensare ad esempio semplicemente quando c'è una pioggia forte, anche di intensità media, dobbiamo pensare che il terreno si satura molto, molto rapidamente di acqua e quindi ad esempio, la parte aerea della pianta si trova ancora in condizioni ottimali, ma le radici cominciano già in assistiva. Qui viene fuori quello che dicono sempre i fioristi: ammazziamo di più le piante dandogli troppa acqua che ne dagliano poca. Esattamente. E quindi diciamo che la sua ricerca ha un'applicazione, se vogliamo, nel futuro, o avrà un'applicazione nel futuro, per quelle piante, immaginiamo ad esempio piante agricole come il mais, il riso, che essendo coltivate in zone vicino ad esempio a fiumi, laghi, potrebbero essere soggette a esondazioni, a sommersione straordinaria. Però lui dice anche a grandi periodi di pioggia, come per esempio questo che abbiamo appena attraversato. Esattamente. Quello che in realtà la nostra scoperta ora pone le basi per poter andare a cercare all'interno della grande variabilità genetica che è disponibile in natura, quelle piante che appartengono alla famiglia ad esempio del mais o del riso o specie orticole, che possiedono delle varietà di proteina, delle variabilità nella proteina che le permettono ad esempio di rispondere in maniera più rapida alla situazione di stress. Quindi ce l'hanno già quella proteina lì? Esistono delle specie che ce l'hanno già? Sicuramente ce l'hanno già. La cosa importante ora è trovare quelle che hanno la versione migliore, diciamo. Cioè voi potrete attivare questo interruttore, no? Questo comportamento della pianta in modo da renderla capace di difendersi dall'eccesso d'acqua. Esattamente. In realtà quello che vorremmo fare noi è agire nella maniera, diciamo, più naturale possibile. Cioè? Ovvero trovare delle piante che siano già in grado di attivarla nella maniera più efficiente possibile e poi trasferire in maniera naturale, quindi incrociando queste piante con quelle di interesse agrario, per poter arrivare ad avere una varietà che abbia un'alta produttività o una produttività caratterizzata da particolari caratteristiche organolettiche, con anche la capacità di resistere all'eccesso d'acqua. Si quindi una sorta di selezione per cui si andrebbe poi a coltivare quelle che appunto hanno una maggior resistenza. E potrebbe andare su tanti tipi di coltivazione, anche quelle più di base, appunto pomodori, uva, su tutte. Esattamente. Bello questo. Certo. Ora, esistono già delle prime applicazioni che non sono state non sono fatte ora su questa proteina che abbiamo scoperto noi recentemente, ma su una che è coinvolta comunque nella risposta alla carenza di ossigeno, e queste sono state fatte in riso. E ora queste varietà di riso nuove che sono state sviluppate si stanno diffondendo sul mercato e sono particolarmente accettate dai produttori di riso e soprattutto in Asia e nel sud-est asiatico. Allora speriamo di riuscire a fare la stessa cosa anche per le nostre specie. Rifacciamo un'ultima domanda, Francesco. Quando si fanno questo tipo di interventi, di ricerche, si ha sempre il timore che possano accadere delle alterazioni, si possano generare delle alterazioni che poi dopo di fatto indeboliscono, in questo caso per esempio appunto una varietà genetica come quella di alcune piante importanti come riso, come pomodori, come uva. In realtà in questo caso sembrerebbe addirittura che vengono rafforzate delle peculiarità, il resto non cambia. Le chiedo, insomma, da questa ricerca qui, intervenendo su questo comportamento delle piante, però si va a inibire qualche altro comportamento? La mia risposta attuale è non lo so, non lo sappiamo. Di sicuro è un aspetto che dobbiamo valutare. Dovete valutare. Quando andremo a trasferire la proteina, come si diceva, che è di nostro interesse perché è particolarmente attiva, in una specie che ha già tutto un bouquet di proprietà che sono particolarmente importanti per il coltivatore. E quindi questo sarà sicuramente da valutare. Mi causi una precisazione. Qui non parliamo di organismi geneticamente modificati, ma semplicemente selezionati, giusto? Esattamente. Sì, questa è un'altra importante distinzione. Quindi questo richiederà probabilmente un po' più tempo di quello che ci è voluto, ad esempio, per fare questa scoperta. Quindi si parla di qualche anno, probabilmente. Va bene, allora buona ricerca. Ci sentiamo quando ci saranno buoni risultati, nuovi buoni risultati. Grazie. A presto e buon lavoro, Francesco. Buona serata a voi. Abbandoniamo le piante sommerse e andiamo agli autogrill. Adesso vi spiego come mai questo salto, però prima vi presento il mio ospite questa sera, Luigi Bandini Butti. Buonasera. Buonasera. Designer, architetto, Politecnico di Milano, impegnato da tempo in una ricerca e anche in una promozione di un'attività culturale che è quella denominata Design for All. Adesso arriveremo all'autogrill. Lei è autore di un libro, Design for All, nelle aree di ristoro, il caso autogrill, edito da Maggioli. Riusciamo a dare una definizione rapida. Quella che a me viene in mente, mi dica se sbaglio, è riuscire a fare una progettazione che ci dia degli oggetti o anche delle grandi oggettoni grossi come può essere un autogrill, nei quali tutti i comportamenti che noi possiamo avere sono studiati in modo che non vi siano tribù nostre che si trovano in difficoltà. E attenzione, questo non riguarda solo e assolutamente i diversamente abili. È così? Sì, certamente. Quello che noi diciamo è che noi cerchiamo, oltre al rispetto delle norme, delle regole, il rispetto della dignità umana. Non mi va bene che ci sia un ascensore per salire a un certo piano, ma che questo ascensore sia costantemente occupato dalle bidoni delle immondizie, per esempio. Questo la legge è rispettata, ma non la dignità umana. Ok, quindi è una articolazione di interventi molto fine, insomma. Ecco, l'autogrill è un evento dal punto di vista della percorrenza di persone micidiale. Ci sono dei momenti in cui credo che in un paio d'ore di lì possano passare 10.000 persone. Che cosa significa progettarlo con questi criteri? Bisogna anticipare che Autogrill ha sviluppato i criteri del design for all, li ha fatti diventare punto focale del suo ultimo sul nuovo intervento, che è quello alla barriera nord di Milano. Stiamo parlando di un caso concreto, certo. Sì, sì, è un caso concreto. È importante che sia un caso concreto, perché di teorie se ne possono far tante, ma... Certo. E Autogrill in questa occasione ha sposato il principio, oltre i principi di rispetto ambientale, di recupero energetico, eccetera, i principi del design for all. In che cosa consiste? Facciamo qualche esempio. Certo, fondamentalmente, che non basta avere dei bagni, ma bisogna pensare a tutti i casi. C'è un caso assai particolare che può essere capitato a moltissime persone, che è quello dell'uomo che accompagna una bambina piccola. In questo caso che cosa è successo? Sono stati progettati degli spazi apposta per risolvere questo tipo di problemi? Beh, in realtà i bagni sono stati divisi in tre settori, uomini, donne, e un settore che serve le famiglie, le persone fortemente disagiate, per quelli che si muovono in carrozzella elettrica, e in questi casi particolari, come una badante che bada una persona dell'altro sesso, oppure i genitori che avevamo detto prima. E quindi diventano degli spazi nei quali si chiama la gente ad avere un atteggiamento, come dire, più condiviso e più attento alle diversità. Un altro esempio. Noi tutti abbiamo delle difficoltà, non c'è bisogno di essere stranieri o avere problemi di udito o di parlare, quando andiamo alla cassa e dobbiamo fare battere lo scontrino, dobbiamo descrivere il panino. In questo autogrill le casse sono diffuse, i camerieri che ti servono i panini e le bevande possono far pagare. Possono far pagare, e quindi non c'è bisogno di scrivere, uno può essere sordomuto che riesce a farsi capire perfettamente. Un altro punto sicuramente molto interessante è che il market è diventato un market diffuso. Ci sono tante isole, ma non c'è più quel percorso. Il percorso obbligato? Non c'è più il percorso obbligato. Con la barriera alla fine. Non solo, ma gli scaffali sono più bassi, in modo che tutti, anche i bambini o chi è in sedia a rotelle, possa raggiungere anche piani più alti, e questo ha dato un grande vantaggio, che c'è una visibilità fantastica in tutto lo spazio. Che fra l'altro è uno spazio molto bello e arioso. Luigi Bandini Butti, grazie e buona ricerca. Grazie a voi. Parlavamo di autogrill, vediamo cosa succede nel traffico. Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Chissà, forse potremmo ricavare suggerimenti interessanti per la crisi dell'Alitalia. Speri? Ma non so, bassi non so. Costi. Neanche Leonardo ne trasse grandi vantaggi, adesso vediamo. Comunque, domanda dell'ascoltatore, ci scrive Claudio, che ci chiede, sentiamolo. Buonasera, sono Claudio Cattaruccia. Chiedo se è possibile sapere come mai gli aerei hanno bisogno per volare di un impennaggio verticale di coda, quando invece gli uccelli non hanno bisogno di questo artificio e volano con una coda piatta e muovono, ruotano, allargano in base alle loro condizioni di volo per muoversi, diciamo, e dirigersi. Allora, io non ci capisco niente di meccanica del volo, però mi pare che abbia chiesto perché gli aerei hanno l'ala posteriore verticale e invece gli uccelli hanno una bella coda orizzontale. Sì. Più o meno, insomma. Perché... Sostanzialmente questo, ma poi la domanda è come mai questi animali riescono, no, addirittura ad atterrare verticalmente l'aereo, insomma. E quindi come mai l'aereo non prende spunto, o chi progetta gli aerei non prende spunto dalla sarebbe di una comodità, pensare agli aeroporti, sarebbero piccoli. Chiediamolo. Chiediamolo. Ok, lo chiediamo ad un docente quindi di meccanica del volo dell'Università di Bologna. Benvenuto e bentornato a Fabrizio Giulietti. Buonasera. Dunque Giulietti, cosa rispondiamo a Claudio? Perché gli aerei non imitano il volo degli uccelli? Allora, la prima cosa che possiamo dire è legata al modo di costruire un aeroplano. La maggior parte dei velivoli che volano oggi sono costruiti con delle strutture rigide, quindi la fusoliera, l'ala e i due piani di coda orizzontali e verticali sono costituiti da strutture in lega di alluminio, quindi strutture metalliche rigide, con delle appendici che sono le superfici di controllo che possono essere movimentate dal pilota. Okay. Per garantire la stabilità e la controllabilità dell'aeroplano, si deve agire su tre piani che sono perpendicolari tra di loro. Ok, invece gli uccelli non sono così rigidi, ecco. No, esatto, la flessibilità del loro corpo fa sì che anche una superficie che in determinate condizioni di volo può essere disposta su un piano orizzontale, come ad esempio quando il nostro ascoltatore fa riferimento alla coda, può essere, modificando la postura oppure agendo sulla muscolatura, può essere ruotata e quindi creare delle azioni che stanno anche, che vanno ad agire anche su piani verticali, e questo garantisce la possibilità di manovrare da parte degli uccelli. Possiamo dire che l'uccello ha una sua duttilità nel corpo per la quale praticamente cammina nell'aria, no? Riesce a muoversi come noi ci muoviamo camminando per terra. Esatto. Ma gli aerei non possono averla perché noi non possiamo farli così molli, per dirla rapidamente? Allora, in realtà il primissimo all'inizio della storia dell'aeronautica, i fratelli Wright brevettarono un sistema di movimentazione, modifica dei profili dell'ala che conferiva al velivolo la possibilità di manovrare, proprio ispirata a come gli uccelli modificano le loro ali. Questo sistema poi è stato, inizialmente era utilizzato perché gli aerei venivano costruiti in legno e tela, quindi tutto sommato strutture flessibili. Sì. Con l'aviazione commerciale, quindi il fatto di trasportare sempre più peso, passeggeri, fare velivoli per missioni sempre più lunghe, quindi la capacità di resistere anche alla turbolenza atmosferica ha portato alla nascita di strutture sempre più rigide, e quindi questo ha portato alle configurazioni ala, coda e fusoliera che sono quelle che vediamo normalmente tutti i giorni. Ma mi scusi, l'aereo deve decollare con davanti 1,5 km, insomma, di corsa, no? E gli uccelli praticamente si alzano, fanno un salto verso il cielo e via, e partono, no? Anche questo è legato al fatto che abbiamo da una parte un corpo che può muoversi come vuole, mentre invece l'aereo, se non raggiunge una certa velocità, non si alza, proprio sempre per queste rigidità. Esattamente, proprio perché, diciamo, la lunghezza della pista di cui ho bisogno per decollare è legata al rapporto che c'è tra il motore, la spinta che io ho installato a bordo, e il peso del velivolo. Che non può essere una roba che in 3 metri fa decollare un aereo. Esattamente. Bene, ma dal volo degli uccelli, ecco, c'è qualcosa che ha ispirato, almeno in un caso, le macchine volanti che costruiscono gli uomini? Dal punto di vista dell'ispirazione che viene dalla natura, l'esempio più calzante è quello degli uccelli che vivono in prossimità del mare. Quindi gabbiani. Gabbiani e albatros. Parlando dell'albatros, è un esemplare che ha un'elevatissima efficienza aerodinamica, che è diciamo la specie animale che ha ispirato il nostro volo planato, quindi gli alianti, quindi i velivoli che non sono dotati non a motore. Sono ispirati all'albatros. Ma questo perché anche... lei dice che vivono in zone marine? Allora, in realtà c'è un fenomeno che si sviluppa principalmente sulla superficie del mare, che viene sfruttato dagli albatros, che addirittura loro riescono a volare senza battere le ali. Sfruttando in realtà la differenza di intensità di vento che c'è tra la superficie del mare e una quota che è intorno ai 20 metri. Volando all'interno di questa zona, queste specie riescono a volare senza battere le ali. E lei dice questi ci ispirano, hanno ispirato un certo tipo di aereo, l'aliante. Stanno ispirando l'aliante dal punto di vista della geometria dell'ala. Se voi osservate l'ala di un aliante, osservate l'ala di un albatros, vedete che hanno delle caratteristiche che sono molto allungate, quindi sono caratterizzate da un'elevata apertura, però molto strette, e questo garantisce una buona efficienza aerodinamica, quindi la possibilità di stare in aria senza perdere quota, mettiamola così. A differenza di un'ala che può avere un rapace diurno, ad esempio l'aquila, che ha una forma molto più tosta, molto più rettangolare, che gli fa perdere un po' di efficienza aerodinamica, però gli permette una elevata manovrabilità, quindi per questo i rapaci sono molto abili nel predare, quindi nel cacciare in volo, proprio perché hanno quest'ala che gli permette, a scapito dell'efficienza, un'elevata manovrabilità. E anche sul volo degli uccelli in realtà continuiamo ad imparare nuove cose. Una recente ricerca pubblicata su Nature ha svelato il segreto del volo a V degli uccelli, per cui appunto si dispongono in questa formazione con un uccello davanti al vertice e quelli dietro sulle file successive disposti in modo che ciascuno sia leggermente spostato verso l'esterno, perché in questo modo si ridurrebbe l'attrito e anche il costo energetico appunto del volo. Giulietti, questo segreto degli uccelli migratori in qualche modo ha ispirato anche voi, perché avete fatto uno studio proprio sul volo umano, il volo umano a V. Sì, insieme a una università tedesca noi abbiamo appena sottomesso un progetto nell'ambito dei programmi di ricerca europei, proprio basato su questo fatto, cioè di provare a immaginare una flotta di velivoli commerciali da trasporto che partono da diverse città in Europa, si trovano in una sorta di punto sopra l'Atlantico, si dispongono in una formazione, attraversano l'Atlantico in una formazione che ha una forma di V rovesciata, come le anatre, come gli ibis, sì. E poi una volta arrivati sopra gli Stati Uniti ognuno va al proprio aeroporto di atterraggio. Quindi, ma sfruttare il volo in formazione per velivoli da trasporto, per minimizzare il consumo di carburante quando si effettuano delle rotte transatlantiche o transoceaniche. Bene, molto interessante. Va bene, grazie Giulietti, davvero buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Siamo in conclusione, pochi secondi, cosa facciamo? Ricordiamo come scriverci? Ma io ricorderei, sì, se qualcuno avesse questioni, suggerimenti o anche qualche informazione da chiederci relativa ai servizi che abbiamo appena mandato in onda. Insomma, scriveteci a moebius@radio24.it. E ora? Buona settimana a tutti. E a tutte. Ciao!